Allora, ultima lezione del 18 febbraio. Ultima lezione del 18 febbraio. Allora, la lezione del 17 non è stata registrata e quindi non c'è. Adesso vi devo leggere, volevo leggervi un paio di robe prima di... Allora, leggiamo il che cosa vuole Luther Blissett, così almeno leggiamo almeno che è praticamente il primo manifesto, insomma, di Luther Blissett, pubblicato nel numero 0, aprile-maggio 95 di Luther Blissett, rivista di guerra psichica e adunate sediziose. Che cosa vuole Luther Blissett? 1. Luther Blissett è un personaggio metodologia. L'idea è quella di suscitare un interesse morboso nelle opere, azioni e reputazione di Luther Blissett. Luther Blissett vuole fuggire dal carcere dell'arte e cambiare il mondo maiuscolo. A questo scopo si adopera per presentare alla società capitalistica un'angosciante immagine di se stessa e disprezza gli architetti catalani di mezza età. 2. Chiunque può diventare Luther Blissett semplicemente dichiarandosi parte del progetto e firmandosi col nome collettivo Luther Blissett. Si tratta di un genuino esperimento esistenziale, un esercizio di filosofia pratica. Luther Blissett desidera vedere cosa succede quando si cessa di distinguere tra chi costruisce e ciò che viene costruito. La scultura del Mosè di Michelangelo diviene la storia di un'afasia che porta all'autolesionismo e al suicidio, mentre gli architetti postmoderni, categoria con cui ce l'avevano a morte, perché era la seconda volta, vedete, mentre gli architetti postmoderni muoiono per overdose di anabolizzanti, screditando le palestre in cui si allenavano e dopavano. È un giochino che aiuta a capire molte cose. Luther Blissett. Questa cosa degli architetti, Sì. nel senso, ce l'avevano vero, cioè, nel senso, avevano dei problemi veramente con gli architetti o è solo una cosa No, che scrivono ma una così cosa giusto culturale per... per dire che gli architetti sono tutti. Non è una roba sbagliata di per sé, No, a dire che la sì. quegli architetti non è che No, chiaro. viene registrato, eh. Ma... No, non credo ci fosse nulla, no, no. Era così. Dici che ti stavi chiedendo se per caso la fidanzata di Bui lo avesse lasciato per un architetto catalano, insomma, no, penso di no, penso di no. 3. Luther Blissett ripone la propria fede in una filosofia pratica, ma disdegna e boicotta lo studio della logica come avviene nelle università o in altri istituti autoritari. Il progetto Luther Blissett va sperimentato per strada e implica la creazione continua di stili di vita libertari, non astrazioni teoriche spacciate per critica radicale. Nella loro intenzione questa avrebbe dovuto essere una presa di distanza dal situazionismo, perché poi loro in realtà applicavano metodi, ma per questi Luther Blissett qua, per questa fase di Luther Blissett, il situazionismo era troppo marxista, secondo Debord era troppo marxista. 4. Il capitalismo domina le cose e le persone nominandole e descrivendole. Tu sei un io. No, io non voglio più essere un io, voglio essere infiniti ii. Il nome collettivo distrugge i meccanismi di controllo della logica borghese. Senza possibilità di classificazione, il potere non può imporre identità precotte e predigerite, né operare per metterle l'una contro l'altra. Pavlov muore con i suoi fottuti campanelli. Questa frase gli piaceva tantissimo, l'hanno ripetuta un sacco di volte. Pavlov muore con i suoi fottuti campanelli. È chiaro il riferimento. Cani di Pavlov. Pavlov era uno scienziato russo dei primi del secolo del Novecento, che è praticamente quello che ha scoperto, insomma, o si è inventato i famosi riflessi condizionati, per cui davano da mangiare, davano del cibo a un cane e intanto suonavano un campanello, il cane gli veniva ovviamente, gli facevano vedere il cibo suonando il campanello e il cane salivava. Dopo un tot di volte che era stato questo, suonavano il campanello senza vedere il cibo, il cane salivava lo stesso, riflesso. Poi su questo alcuni sociologi e scienziati americani negli anni 40 costruirono la teoria del comportamentismo, insomma, che però è una storia lunga. ce l'hanno con il comportamentismo e quindi e Paolo muore con i suoi fottuti campanelli. 5. Poiché il mondo in cui viviamo va destrutturato e cambiato da cima a fondo, abbiamo adottato un nome collettivo. Ogni azione firmata a Luther Blissett è una sfida al dominio ed è la dimostrazione che siamo ingovernabili. 6. Il progetto Luther Blissett è stato avviato nel 1994 dal musicista e performer californiano Coleman Healy. Questo è quello che vi ho letto ieri, ovviamente è una palla. Che ne ha poi attribuito la paternità a Harry Kipper, un inglese immaginario. Questa sorta di teogonia per tutto lo scorso anno ha costituito un nome collettivo parallelo. Mentre usavamo il nome Luther Blissett, varie situazioni in tutto il mondo cooperavano per diffondere false voci su Harry Kipper, che infatti è dell'anno prima. Rientra in questo sottoprogetto quello che i media italiani hanno chiamato la beffa a chi l'ha visto, di cui vi ho parlato ieri, su cui non abbiamo più intenzione di spendere parole. Estratto dalla rivista Virus e Luther Blissett Manifesto, ah no, questo è Basta col culto dei valori, questa è la cosa mia, che però si è pubblicata sempre in Totò per fine. Hanno pubblicato dei pezzettini, il netto insomma, ce n'è un sacco, qua è pieno di robe di questo. Era solo per farvi capire lo stile un po' come. È uno stile sentenzioso, il cui modello filosofico ovviamente è Nietzsche. Nietzsche che ha cominciato, è stato il primo, che ha cominciato poi un po' anche Kierkegaard, ma più Nietzsche. Ma non si trova più stile qui qua, ragazzi, comunque. Tutto dopo il primo della guerra psichica. Edizioni. Comunque se andate poi sul sito di cose, eccetera. Allora, San Precario invece è una storia completamente diversa. San Precario si può chiamare nome collettivo anch'esso, ma ovviamente è in un senso, in un modo, diciamo, diversissimo. A partire dal 2000-2001, non mi ricordo bene, forse dal 2000 appena, una parte alcuni personaggi, alcuni gruppi e alcuni individui che facevano riferimento storicamente all'autonomia operaia, cominciarono un intervento sul tema del precariato che già 10 anni fa o 12 anni fa era, rivelava chiaramente come una delle chiavi di volta, una delle componenti fondamentali della condizione lavorativa contemporanea, e decisero di fare una cosa, cioè dopo un anno, qualche mese di lavoro, insomma, eccetera, di lanciare un primo maggio alternativo. Il primo maggio, come sapete tutti, la storia del primo maggio è una storia lunga, vecchia, eccetera, eccetera, è la festa del lavoro ed è la giornata nella quale in tutta Europa, più o meno in tutto il mondo, insomma, dove ci sono sindacati, i sindacati, è una giornata di festa laica, non di tipo religioso, e quindi è la festa del lavoro o dei lavoratori, i sindacati vanno in piazza, eccetera, eccetera. Allora, già quando ero piccolo io, cioè già negli anni 60-70, quindi, il primo maggio era, come dire, si stava trasformando un po' in una celebrazione stanca, un po' rituale, eccetera, eccetera, però in tutti gli anni 70 la sinistra rivoluzionaria in Italia, per esempio, andavamo, quando ancora i sindacati facevano un corteo quel giorno, partivano da una piazza con un comizio finale, noi facevamo sempre uno spezzone del corteo. Col passare del tempo la partecipazione degli operai tradizionalmente sindacalizzati alla festa del primo maggio diminuì, cominciava a diminuire. Ci furono periodi negli anni, fino agli anni 70, fino ai primi 80, in cui nei cortei sindacali la maggior parte, cioè lo spezzone, gli spezzoni più numerosi erano quelli dei perché dici che dai non prego. Ciao. Ogni tanto bisogna venire a dare una cosa, no? Quindi erano più numerosi quelli della sinistra rivoluzionaria che quei sindacati. A poco il sindacato però decise di non farne più nulla e praticamente il 1° maggio facevano solo una, che ne so, un breve presidio in una piazza, tutto con le autorità, i sindaci, mica sindaci, presidenti di regione, altra centaglia del genere, e mettevano qualche cazzo di corona di fiori a qualche cazzo di statua di lavorazione, c'è una roba così. Allora, questi qua dicono, perché non facciamo un 1° maggio vero? Cioè, loro fanno le loro, i generali tradizionali fanno le loro cose di mattina, e noi facciamo nel pomeriggio, e facciamo una cosa divertente, e parte da Milano questa cosa. Ci vediamo in piazza 24 maggio, in Porta Cinese, e da lì facciamo il centro, bla bla, non c'è nessuno. Bla. La cosa parte, ma è già fin dal 1° anno ha un grande, cioè tipo, che ne so, 5.000 persone, senza... fatta da gente sconosciuta, insomma, quindi da piccoli gruppi, piccoli collettivi, e dedicata ai precari, però. Allora, non ricordo bene, comunque c'è la storia qua, per quanti anni, per 2 o 3 anni mi sa che, o forse questo fin dall'inizio, non credo, però credo che i primi 2 anni non c'era. Dopodiché decidono, intanto la cosa, allora prima vi faccio la storia, e, diciamo, decidono di chiamarla May Day Parade. May Day Parade ha un doppio senso, come voi sapete, perché in inglese May Day non vuol dire solo 1° maggio, ma è anche il simbolo di aiuto, insomma, l'SOS. May Day, aiuto, aiuto. Quindi, aiuto, siamo una merda, siamo, cioè, quindi c'era questo doppio senso. I sindacati tradizionali non si occupano di noi precari, di noi, diciamo, lavoratori precarizzati, e quindi noi dobbiamo fare, però non vogliamo fare un sindacato. Fino dal primo anno, credo, uno dei sindacati di base alternativi, la CUB, Confederazione Unitaria di Base, ce n'erano già tanti, c'erano da CUB, COBAS, c'erano varie sigle di sindacalismo autonomo di sinistra, diciamo. La CUB partecipa a questo 1° maggio alternativo, però non sono gli organizzatori, cioè gli organizzatori sono questo gruppo qua, i quali in breve fanno una specie di rete chiamata, lo vedete lì sopra, Chain Workers. Infatti questo San Precario sta, se guardate l'indirizzo internet, www.chainworkers.org, Chain Workers, lavoratori alla catena, lavoratori incatenati. È un'organizzazione di tipo non proprio sindacale, non è un sindacato, non si occupa di fare le rivendicazioni, ma di tipo, diciamo, virgolette, politico, per diciamo, dedicata prevalentemente al lavoro precario. E allora dicono, ci vuole, allora diciamo, dopo un anno o due, secondo me, decidono che ci vuole un simbolo di questo nuovo movimento, perché la May Day va bene, tutti gli anni cresce, tra l'altro adesso sono 12 anni che si fa questa May Day, già alla terza o quarta, mi sembra già nel 2006-2007, si cominciò l'allargamento internazionale, quindi gruppi collegati a Barcellona e in altre città d'Europa, praticamente Francia e Spagna, però qualcosa anche in Germania, credo. Insomma, quindi una roba internazionale, grandi robe, eccetera, eccetera, e in qualche modo ci sono alcuni di questi che sono collegati, o che comunque quelli sono gli anni in cui rinasce, nel 1999, vedete, questa da Seattle, quindi si è creato il movimento cosiddetto No Global, fino al 2004-2005 è stato... e quindi c'è anche una partecipazione a questa area, a questa canzone. Però dice, ci vuole un simbolo. Allora, il simbolo è, facciamo un... dice, stiamo alla merda, no? Noi, come dire, lavoratori precari, perché da un lato abbiamo i padroni che ci strozzano con queste condizioni, dall'altra parte non abbiamo neanche i sindacati che ci proteggono, perché i sindacati proteggono soltanto i lavoratori, organizzano soltanto i lavoratori stabili. È difficile organizzare i lavoratori stagionali o i lavoratori precari, eccetera, ma loro proprio non ce la voglia. E allora siamo messi male, allora non sappiamo a che santo votarci. E allora decidono, dice, ecco, facciamo un san precario. Ovviamente è una cosa terribilmente ironica, perché sappiamo tutti, è un movimento laico, un movimento addirittura di forse anche anticlericale, forse ateo, forse proprio di gente cattivissima, insomma, niente, non buoni figli di Maria o buoni figli di Gesù, e però pigliano il santo. Per fare questo santo usano una, vedete, insomma, è chiara l'immagine, no? Una iconografia di una immaginetta tradizionale dei santini, delle immaginette, delle cose. diciamo, a metà tra i santini e le statuette del presepe napoletano, perché c'ha questo genere di cosa. Gli danno una grafica, insomma, così. Dunque, dall'inizio San Precario, vedete, è stato immaginato come il détournement di una tradizione popolare, quindi il termine di détournement, vedete che torna. Questa tradizione è contemporaneamente appropriata nei suoi aspetti formali e sovversiva nei contenuti. San Precario è il patrono mitopoietico, mitopoiesi, cioè questo è un concetto che Luther Blissetan prima già aveva portato avanti, è il santo patrono mitopoietico degli spossessati, dei soggetti dispossessed, devo fare una breve, perché tutte le parole qua hanno. Allora, The Dispossessed è il titolo inglese di un romanzo di fantascienza di Ursula Le Guin, uscito negli anni 70 e tradotto in italiano la prima volta come I reietti dell'altro pianeta. È un romanzo di fantascienza che ha un sottotitolo, che è The Dispossessed, sottotitolo An Ambiguous Utopia, un'ambigua utopia. Alla fine degli anni 70 un gruppo di pazzi milanesi prese il sottotitolo di questo romanzo, Un'ambigua utopia, e ne fece il nome di una rivista e di un collettivo che ha avuto una certa importanza nel mondo della fantascienza, ma un po' in generale nei movimenti alternativi, e di cui io facevo parte, confesso, è un'autobiografia, quindi fra le cose che trovate nei miei libri trovate anche robe su Un'ambigua utopia. Recentemente l'editrice Mimesis ha ristampato tutti i 9 numeri che uscirono di questa rivista fra il 77 e l'82, non mi ricordo più, quale è stato l'ultimo, sono 9 numeri. Quindi per il rotto della cuffia siamo stati considerati uno spin-off del movimento del 77. È carino ritrovare Dispossessed qua, cioè no. Dispossessed è, come si può tradurre, spossessati, senza proprietà, reietti, coloro marginalizzati anche, si potrebbe dire, no? Cioè, è una cosa che può tradurre. Quindi San Precario è il patrono mitopoietico degli spossessati o dei reietti, dei soggetti reietti ma combattivi, con l'intenzione di rinnovare l'immaginario popolare di una lotta per nuovi diritti sociali. E poi segue l'invocazione: o San Precario, protettore di noi precari della terra, della gioia della maternità pagata, proteggi i dipendenti delle catene commerciali, degli angeli del call center, le partite IVA, i collaboratori appesi a un filo. Vedete che già fin da subito questo movimento tenta una demitizzazione di un luogo comune, cioè le partite IVA, no? Le partite IVA, certo ci sono quelli che ce l'hanno, ma molte delle partite IVA non sono nient'altro che lavoro dipendente precario mascherato da autoimprenditorialità. Uno non fa l'autoimprenditore per nulla. Spesso il suo datore di lavoro lo costringe a farsi la partita IVA, perché sennò non lo paga, ma insomma non si... Allora, vediamo se riesco a trovare. Qui c'è un video, è stato fatto l'anno dopo. Intanto nel frattempo questa esperienza di Chain Workers cresceva. Allora, qui c'è la vita di San Precario già preco, instabile, non fermo, senza equilibrio. E c'è tutta una bella roba di farsi, la leggenda di San Precario è raccontata nella leggenda aurea, una raccolta di vita di santi scritta nel XXII secolo, sarebbe il XII secolo, da Jacopo dalla Ragine. Il libro è vero, la leggenda aurea è da vero, uno dei testi, ovviamente non parla di San Precario. All'età di 25 anni, è abbastanza divertente. Ma volevo, maledetti, non me lo fanno trovare, volevo... Cioè, non è che ho scritto pure sbagliato nel qual scritto Cian Workers, Allora, volevo cercare il video accidentaccio, perché il video non c'è? Vabbè, qui è... questi sono i punti San Precario. Allora, devo dire che l'architettura di questo sito, che ho detto già varie volte, è fatta malissimo, però... Download IS Santino, e va bene. Ma perché non devo trovare il video di San Precario? Questa è la home. Questa è la home. San Precario idem, perché è un pezzo di Genworth. Allora, probabilmente forse sta in precaria, però... però precaria si mette 3 anni. Perché ne ha fatti poi diversi di siti, quindi... Vedete, precaria è lentissimo, è il primo che... Allora, perché adesso nell'ultima cosa sono stati questi quaderni di San Precario, che sono una rivista, una... Allora, vediamo se troviamo New Special Edition, cioè San Precario, External Readers. Non so se lento il server o se siamo lenti noi, ma... Not found, allora, 2 anni fa era facilissimo trovarlo, perché in un corso di 2 anni fa stava addirittura in prima, niente. Qua ci sono, ovviamente è giusto che ci siano le novità, insomma. Same workers, ok? Fritte precarie, no? Di arte. Qua ci sono, passano i soldi, ma volevo far vedere il... Niente. Non si trova. Vediamo un picchetto che hanno fatto a... Perché poi comunque fanno delle cose, perché organizzano... Vediamo se va al video. Forse era meglio andare su YouTube direttamente. No, per dire il 4 gennaio è abbastanza... Abbiamo deciso che è la nostra connessione stativa. Siamo fermi a 2 secondi all'incirca da 1 minuto, cazzo. Sì. Forse è meglio mettere tipo in pausa, aspettare che va avanti un po' il rosso, cioè che va avanti un po' il caricamento. Lascialo qui. Sì, ma guardate che cosa, guardate quanto va avanti. Cioè non è possibile lavorare in questo modo, ragazzi. Per la rete. Primo, ci facciamo fare il sì, ma anche quella è una cosa che bisogna che facciamo presente il prima possibile. Quella di internet. Sì, vuoi fare lezione. Quando c'è cosa di uno abbiamo bisogno di internet e non sì, ma ieri comunque. Ieri ero venuta da Imandrea, stavamo facendo lezioni di WordPress, non abbiamo potuto farlo. No. Cioè, o almeno possono farlo uno alla volta perché è un computer va. Adesso però no, cioè non è che. Ma ne parliamo con voi anche di questo. Sì, hai installato. Va bene, ragazzi, basta, è inutile che stiamo lì. Che sei andato installato? Sì. C'è anche nella stavolta. Infatti un minimo va, se no proprio non caricava le parti. No, no, non si presenta. Che puoi incorreggere con la carta.intervista.org c'è il sito di la prova che abbiamo fatto. Oh, eccolo qua! Però se non va. No. Questo è sul mondo. Non va neanche. Va bene, direi che se vogliamo fare azione non si può fare conto su scale qua. Va bene, allora, però diciamo, allora, facciamo qualche considerazione sulle diciamo, differenze tra San Precario e altri nomi collettivi. Allora, diciamo, San Precario è a differenza. L'Utterblitzet nasce, abbiamo visto, sì, c'ha un riferimento alle lotte sociali, però nasce più che altro in ambienti artistici e indica, è un nome che indica piccoli collettivi, piccoli gruppi di 4, 5, 10, magari, come dire, persone che utilizzano e poi magari intorno a essi, se, allora, mi sono dimenticato ieri di dirvi sull'Utterblitzet che in realtà diciamo l'unica, a parte casi singoli, come io che ho fatto una una volta e altra gente che ne ha fatte in giro, insomma così, singolarmente, però diciamo l'unica altra realtà, l'unico altro collettivo al di fuori di quello bolognese che è nato, è stato quello di Roma. C'è stata una esperienza di Utterblitzet di Roma che in effetti poi finisce, era un po' diversa da quella ovviamente di Bologna. Si chiamavano sempre l'Utterblitzet, ma insomma. Personaggi anche simpatici personalmente quelli di Roma, devo dire anche forse più simpatici dei bolognesi su un piano umano e anche su un piano così di. Alcuni di essi erano allievi della neonata o della vecchia facoltà di sociologia o della neonata facoltà di scienze della comunicazione. La loro impresa più così e stavano loro erano nati in gran parte intorno a un centro sociale che è quello del Forte Prenestino di Roma e l'esperienza telematica era quella, la vecchia storica Havana BBS, una delle prime BBS, cioè delle prime comunità prima di internet, prima del web c'erano le BBS. Erano bulletin board system, una specie di bacheche elettroniche, tipo the wall, cioè i muri, pescavano le bacheche di Facebook, in cui però partecipavano un tot di persone, ti iscrivevi, mettevi un messaggio, e c'era a Roma c'è stato un movimento cyberpunk in Italia precedente al web, il cui nodo romano era Havana BBS, Havana con l'H. Insomma, questo era l'Utterblitzet romano. La loro impresa più illustre fu l'occupazione di un tram. Una sera salirono un tot di persone su un tram e fecero il dirottamento del tram. Ovviamente il tram non viene dirottato perché avevano il dirottato, però si piazzarono lì e fecero canti, balli, eccetera, eccetera. Una cosa un po' abbastanza divertente, ovviamente dura poco perché poi dopo un po' arrivò la polizia, che, però non avevano fatto nulla di grave, insomma, erano stato ricca, cantavano e ballavano sul tram, non è che fosse una cosa, però la cosa è più grande perché c'era, poi andò sui giornali, una grande cosa. Vabbè, poi alcuni di questi fecero delle esperienze molto... Ma loro, questi di Roma, sì, avevano... No, né riviste né niente, non avevano riviste, no, questo c'era. No, fino a, arrivano delle... facevano delle azioni anche politiche, oltre che come... No. Ma no, ma c'erano veramente, insomma, politiche no, perché c'erano, era più... era più una sigla usata come... come diciamo, sì, era l'aspetto, per così dire, scanzonato, divertente, eccetera, di attività di tipo politico. Okay. Però poi le robe più grosse continuavano a essere firmate forte, Prenestino, cioè era il centro sociale che le firmava, non loro, insomma. L'occupazione del tram può essere. Però per esempio rispetto ai bolognesi, i romani avevano una minore, come dire, pretenziosità teorica, erano meno pretenziosi, meno, non dico meno interessati, ma sbandieravano meno le questioni teoriche ed erano più attenti alla dimensione collettiva. Il gruppo di Lutero Blisette Romani rimase a lungo per quell'anno, due che durarono, ma era un gruppo che si vedevano, eccetera. I Luther Blissett bolognesi, dopo la primissima fase, erano quei cinque lì, quei quattro lì che poi fecero Ming. Sì, era un po' più collettivo Luther Blissett romano che non i Luther Blissett bolognesi. Va bene. Allora, San Precario invece, capite che è una cosa totalmente diversa. San Precario non pretende di essere un nome che sta al posto di nomi veri, è l'emblema, è il simbolo di un movimento di massa. Nessuno ti chiede davvero di credere in San Precario, mentre almeno nelle primissime fasi qualcuno ti poteva chiedere, no, guarda che io sono un Blisset, cosa vuol dire? Il precario che va in giro, fa le azioni di lotta, fa la media dei pareggi, non va in giro a dire io sono San Precario, anzi, c'è, come dire, un meccanismo di finto, ironico transfert, oggettivazione. Io sono un devoto di San Precario. Nessuno direbbe io sono un devoto di Luther Blissett, no? Quindi già, come vedete, che c'è questa, che c'è questa, diciamo, differenza. Mentre le analogie sono evidentemente sul, diciamo, terreno del détournement, e soprattutto nel caso di San Precario dell'ironia. San Precario prende in giro in qualche maniera, parodizza, fa una parodia della ritualità cristiana, cioè il santo, gli faccio l'edicoletta, gli metto le candeline accese sotto, gli porto i fiori, cazzo ne so, e io faccio la stessa cosa con San Precario. E San Precario è stato usato, come dire, a man bassa come un simbolo, cioè effettivamente vanno fatti i copertini, quando si apre la May Day Parade, il primo camion, il primo truck che c'ha la musica, eccetera, in genere c'ha sul rostro davanti la statuetta di San Precario. Se adesso insomma, non ci torno perché ci mettiamo tre ore, comunque se vi ricordate comunque l'immaginetta di San Precario, guardate come è fatto, San Precario viene mostrato inginocchiato. Allora questo, capite che c'è una sorta di raddoppiamento, cioè nel modo in cui San Precario prega già qualcuno, no? Allora io sono un precario che prego San Precario, ma San Precario a sua volta per qualcuno, quindi è, cioè, vuoi capire che c'è l'ironia pure qua, perché dice ma dove cazzo andiamo a finire? Perché obiettivamente se fossi riuscito a farvi vedere questo famoso video, che è il primo video fatto su San Precario, un video fatto bene, in cui si vede uno di quelli di Chain Workers, che no, poi infatti la sua faccia è so famosa, che fa uno che dorme, che come dire, mentre dorme c'ha gli incubi perché dice, ah cazzo, domani come faccio, c'ho la bolletta da pagare, non c'hai soldi, non c'è lavoro, bla bla bla, quindi è un precario, no? Dice chi sarà che ci avrà. E a un certo punto il sogno gli appare San Precario, che è un altro attore, che è un altro dei cose, però diciamo truccato da San Precario. E allora questo precario, il primo, dice, ah, San Precario, lo dice, benissimo, e dice, allora farò il fedele, adesso si mette in ginocchio, fa, dimmi come devo fare, no? E allora San Precario si incazza, San Precario, quello che fa San Precario, e gli dice, guarda che non ha capito niente, dice, no, perché prima lui gli dice delle cose, dice, non ha capito niente, tu non devi pregare me, cosa mi preghi a fare? Sei tu che ti devi muovere, ti devi organizzare, devi fare un culo così a quella che devi fare, e gli, diciamo, gli spiega, diciamo, nel video è esplicitata, evidentemente che bisognava dirlo in maniera, guardate che nessuno vi propone davvero, è ovvio, nel mondo reale è ovvio, ma in quel mondo di finzione uno poteva pensare che hanno costruito apposta un tipo credulone, diciamo, che gli appare in sogno un nuovo saggio, e ora mi rivolgerò a te, sa che tu credulone, e gli dice al precario, io non posso risolvere il problema, sei tu che devi risolvere, quindi viene spiegata in maniera più esplicita, e anche lì scanzonata, ironica, eccetera, ma insomma, in modo un po' troppo didattico, però è fatto bene il video, perché c'è questo ricordo. Quindi insomma capite che si tratta di due operazioni completamente diverse, quindi questo è per spiegare che dietro la categoria di nome collettivo ci può essere, ci possono essere diversi modi di... certamente in entrambi i casi, in entrambe le caratteristiche, come altre modalità che ci potrebbero essere di nomi collettivi di ogni tipo, in entrambi i casi naturalmente c'è, per usare dei paroloni, qualcosa che potremmo chiamare un presupposto epistemologico o addirittura ontologico. Qual è questo presupposto? È che, come dire, la verità è una costruzione sociale. La verità, le cose che vi ho raccontato ieri su The Blizzard erano fatte in modo da dire, non solo per sputtanare i media, eccetera, eccetera, ma anche per dire, guardate che non esiste nulla che sia, cioè non c'è nessun fatto che abbia, come dire, delle naturali caratteristiche per dire io sono un fatto vero, sono un fatto reale, mentre l'altro è un fatto inventato. In qualche misura, in qualche maniera, tutti i fatti sono inventati e quindi, diciamo, la verità o la realtà o che diavolo sia, in qualche maniera è un fatto sociale, dipende da un fatto sociale. Allora, adesso secondo personaggio che vi voglio presentare è Serpi Canaro. Allora, Serpi Canaro adesso ha un sito, serpicanaro.com, e ti spiegano all'inizio che è una community, se mai riuscirà a trovare questo cavolo di sito, dedicata alla moda, è una community dedicata alla moda autoprodotta, è un brand collettivo che ripensa la produzione di stile oltre alla varietà, è un luogo dove condividere talenti e saperi. Ma se noi andiamo a cercare la storia di Serpi Canaro, e la troviamo esattamente qua, e la troviamo niente meno che su Wikipedia, da come sono stata annullata, vaffanculo. Adesso tu guarda un po', perché, cosa c'hai? Io volevo darvi, mi tocca raccontarla io. Adesso non mi... Serpi Canaro, da Wikipedia. Dove? Perché me lo date così? Perché non l'ha caricato tutto. Va bene, allora comunque c'è scritta la data, non importa, ve la racconto io che la so meglio. Allora, Sette Canale nasce praticamente un anno dopo San Peccario. San Peccario, se non ricordo male, o è del 2003 o è del 2004, un anno o due dopo. E nasce in questo modo. Vi racconto come proprio come nata. Ci sono le giornate della moda a Milano nel 2006, cominciano a comparire, cominciano a essere diffusi dei comunicati stampa che dicono: quest'anno parteciperà una nuova stilista giapponese, giovanissima, mai sentita parlare, che si chiama Serpi Canaro, fra due stili stranieri, nessuno mette in dubbio questa cosa per settimane, settimane, tutti sono convinti, nessuno fa la cosa più semplice, guardare Serpi Canaro e vedere che è l'anagramma di qualcosa, l'anagramma di San Precario, Serpi Canaro. Quindi uno che sapeva dovrebbe trovare, e questi no. Vengono prenotati degli spazi, poi non sapete, no, comunque la cosa è così, è stata fatta molto bene, perché hanno costruito tutto una serie. Questo è un falso, diciamo, portato avanti bene, punto. Non è come San Precario, perché se un caso precario non è che dice non è il falso di nulla, dice io sono il retaggio, no, Sergio Calago invece è proprio un nome collettivo, ma è proprio un nome finto, insomma, non è neanche un Teblister, perché c'erano 40-50 persone dietro, c'era un collettivo di lavoratori precari della moda che stava lavorando, che aveva discusso all'interno di Cernula per fare questo genere di cose, e quindi era. Dopodiché, il succo è, viene annunciata la sfilata in uno spazio prestigiosissimo, quello di Crizia. Salvo poi accorgersi che non ci si, loro non sono mai neanche pensato da Chitro, ma hanno detto saremo da Chitro o adesso da un altro, non mi ricordo. Però avevano già preparato la cosa alternativa e hanno preso tutti i giornalisti, no, non si può fare di qui, si fa in un altro posto. Ed era un posto, una specie di, diciamo, un capannone, una cosa abbandonata fuori dalla cosa della moda. Però i giornalisti pensavano, e la sfilata ci fu davvero, ci fu un po' buffa, ma ci furono, c'erano una serie di precari che erano dei, insomma, vestiti fatti, raffazzonati, fatti con sacchi della spazzatura nera, roba di questo tipo, di plastica, così, ma con un'idea, concepiti in modo da, con delle, diciamo, double face, tutti pieni di cerniere, per cui si potevano rapidissimamente cambiare nei vestiti. Due, tre di questi modelli li hanno fatti vedere, perché l'idea è: noi siamo precari, quindi per tirare a casa uno stipendio minimo dobbiamo cambiare quattro lavori al giorno, ecco il tipo di vestiti che ci servono. Questo, che adesso faccio l'infermiere, poi al pomeriggio faccio il bidello in una scuola, e quindi e allora salta fuori la mente la cosa, e allora tutta. Però la stampa ne aveva già parlato, non ci sono vari articoli che dicono: ah, ma com'è sempre canaro, c'erano cascati tutti, cioè. Quindi è venuta, cioè Serpi Canaro ha avuto molto più successo di qualunque truffa mediatica di Luther Bliss di prima, cioè dicono grosso modo a livello degli 01 dal punto di vista, tipo Darko Madre, che era veramente venuta bene, Serpi Canaro anche venne bene. Naturalmente, ne appena fatta questa cosa, poi hanno ripetuto la sfilata in altri due o tre posti. Io l'ho vista la seconda volta che l'hanno fatta al Tempio d'Oro, perché la prima volta non ero andato. E allora dietro al nome collettivo Serpi Canaro c'è invece tutto un discorso interessante sul brand, cioè sul modo in cui si può deturnare un brand. Ma attenzione però, perché il deturnare del brand di Serpi Canaro non è un deturnare classico di tipo, come dire, situazionista, perché in realtà una volta esaurito l'effetto mediatico, è ovvio che l'effetto mediatico si esaurisce dopo qualche settimana, l'hai fatto una volta, non è che l'anno dopo dici c'è Serpi Canaro, questo è ovvio. Allora però il nome si era già imposto, e allora loro che cosa hanno fatto? Hanno fatto quello che c'è scritto lì, quindi per questo dicono Serpi Canaro è un meta brand della moda, diciamo, fittizio, perché dopo, nel 2006, dice il marchio, è stato liberato con la cedura della prima licenza Creative Commons, L'essere umano che da individuale è diventato collettivo. E quindi hanno organizzato una serie di piccole autoproduzioni reali, di moda o di accessori per moda, sempre con un certo stile, con una certa cosa, ma in cui quindi non l'hanno più utilizzato, cioè quello che è stato utilizzato la prima volta come un detourman classico, cioè vi facciamo un fake clamoroso, vi diciamo che c'è una nuova stilista giapponese che invece non c'è. Una volta che hai imposto il nome con questa operazione, utilizzi il nome davvero come brand per fare qualcosa, adesso non che abbiano grandi cifre, però insomma ci sono alcune decine di persone che ruotano intorno, diciamo, che applicano questo brand Serpi Canaro e che producono o autoproducono delle cose. Le condizioni cui deve sottostare chi vuole utilizzare il marchio, allora loro hanno anche creato una specie di franchising, in realtà non è un vero franchising, insomma, sono riassumibili nella dicitura precarity free, cioè libero dalla precarietà, nel senso che l'intera filiera produttiva non deve utilizzare manodopera precaria. Durante la vendita protesta presentata contro la stilista, Serpi Canaro è stata accusata di aver contribuito alle funzioni di non figlio della rana persa. Queste sono cazzate che mettono solo su Wikipedia, perché le cose su Wikipedia non lo so chi le fa. Onzelai, quando hai sentito, sta per caro, va bene, queste sono altre cose, collegate al lavoro, l'intervista. Allora, e questa è la seconda cosa, ed è una cosa importante, ed è comunque una delle attività più che è cresciuta di più negli ultimi tempi dentro Chainworkers. Chainworkers ormai è diventato una struttura abbastanza larga. Continuano a non essere, a non voler essere giustamente un sindacato, però hanno dei problemi, perché ovviamente anche i sindacati di base hanno una mentalità che è poco adatta per questo. E comunque il problema della sindacalizzazione del lavoro precario è un tema che esula da quelli del mio corso, quindi non ve ne parlerò. Però c'è, insomma, è come dire, un problema reale, non è che è un problema che si inventano. Le vecchie forme sindacali non vanno bene, ma in qualche modo una qualche struttura sindacale ci vorrebbe, qualche forma di azione sindacale, lo dico anche per esperienza personale, anche per dire il lavoro precario qui a Brera o i tecnici che si stanno organizzando pure loro, insomma, non è semplice, non è. E veniamo a 3 anni fa. Quindi al 2008, alla fine del 2008, e allo scoppio delle prime manifestazioni, cioè della nascita del primo movimento contro la riforma del Mini. Dovrebbe essere questo. E aspettiamo. Questo sito è www.ministeroistruzione.net, ministeroistruzione.attaccato.net. Apparentemente esso appare come un sito ufficiale del governo, ci sono i loghi giusti, c'è la cosa giusta, eccetera, eccetera. Ovviamente fatto adesso, uno vede notizie, Roma 3 novembre 2008, ma come mai? E infatti dopo pochi secondi la cosa cambia e esce questa cosa qua, esce un testo che dice: sono Anna Damolo, sono il ministro ora dell'istruzione, università e ricerca, il mio compito è quello di tutelare l'istruzione e l'università italiana. Il mio primo impegno sarà il ritiro della legge 133 e della legge Gelmini. Sono Anna Damolo, non capisco perché il mio ultimo bambino che andrà a scuola per 6 mesi dovrà fare la scuola elementare con un maestro solo, mentre sua sorella da 4 anni studia con 3 maestri e sta imparando un sacco di cose. Sono Anna Damolo, sono single e lavoro. E seguono una serie di storie, di frammenti, prese frammenti di storie di diversi personaggi che dichiarano tutti di chiamarsi Anna Damolo, e i libri sto scorrendo tutti, non ho ancora letto tutti, sono una studentessa, poi vedremo dopo cosa c'è, vediamo se riesco a recuperare il video. Eccolo qua il video. Questo video in questa versione del sito è alato. Nella prima versione del sito in realtà era quello che partiva, rimaneva per 10-15 secondi la finta facciata del sito di struttura e poi partiva questo video che è molto breve, quindi vi faccio vedere adesso. Per parti bambine, no? Lasciamo la verità. Ma manco questo. Che bello. D'altronde è una scuola di tecnologia, non è che siamo praticamente internet. Non c'entra. Mica è fantascienza, certo. Molte poi siamo del 2011, cioè, nel senso, un conto che... Peccato, è un video di carino, eccola, sta partendo. No. Bloccherà. Audio 0. Sì, faccio sì, sa qual era anche il caso. Sono a casa. Perché non prende intero? doppio clic sul video, ma e sulle faccette neanche. Che linea è diversa. Sono Alta Madonna. Voglio portare tutte queste voci che ho in questo palazzo. Le nostre voci hanno già suonato e urlato le chiavi. Le nostre voci dentro questo palazzo non possono essere sono ho riportare tutte queste voci dentro questo palazzo. Le nostre voci hanno già suonato e urlato le piante e siamo Esatto. Allora adesso è andato bene perché l'abbiamo fatto cercare prima, voi pensate se per un minuto e dieci di con le mani nel cielo. Sì, sì. Ve lo ricordate a caso karma. No, ma che sempre diciamo là, come dobbiamo regalare per fare un po' di pressione, magari, perché scusa. Cioè, perché vedi comunque qualsiasi tipo di lezione. Cioè, fatica a andare da internet. Cioè, non è solo, non lo so, 40 che lo usa anche Carlo. No, ma poi, vabbè, figurati, e poi queste sono lezioni teoriche, figurati lezioni pratiche. In laboratorio non puoi fare CMS, non puoi caricare i file sul server, cioè. No, ma ieri per esempio abbiamo fatto WordPress, solo io riuscivo a farlo perché avevo il computer che c'era lì, gli altri che avevano il proprio, non potevano fare nulla. Perché poi il wifi va ancora peggio. Perché il wifi va ancora peggio, esatto. Per cui, cioè, può farle Andrea o Marco possono fare lezione a una persona alla volta. Se ci sono solo 2 giga di larghezza... Per me, magari 2 giga. No, 2 giga. No, 2 giga. 2 giga. Però non basta per 2 giga. Se c'hai anche 10 persone digitali, con 20... quando ci sono i corsi con 40-50 persone, ce ne due insieme, come cazzo fai? Sono 100 persone, appunto, 2 giga diviso 100 viene 20 mega. Sì, ma poi... Cioè, poi bisogna vedere, non so com'è il tipo di contratto qua, però anche questi, anche noi a casa, i 7 mega, sì, o 20 mega, sono un massimale, cioè non è la banda finta. Quando comunque hai un certo massimale, tipo, lo devi dividere per il numero dei contatori seghe. Se sono tu, i nostri 56 mega a casa li abbiamo tutti, poi tra 40, tra così sì, via. Però sei da solo, funziona. Già se non sei protetto il wifi, e c'hai un furbo che ti succhia la connessione, devi fare già diviso 2 perché già c'è un altro che ti dico questo perché quando sono stato a Genova negli ultimi giorni con questi casini per mia sorella non mi funzionava accidenti il wifi diciamo di casa, non riuscivo a tenere un casino con il computer, allora mi attaccavo a un altro tipo che non so chi cazzo fosse, ma uno che non si era protetto il wifi e faceva che avevo comunque bisogno di guardare la posta eccetera eccetera, il poverino però capivo che lui gli stavo sul piano, non sapevo come cazzo fare. Devi scaricare... Ma te l'ho sempre fatto anch'io, quindi dico, vabbè, allora posso scaricare. Siamo seduti per finire i giochi della politica. La politica adesso la facciamo da noi. Intanto la nostra voce che c'è in questo palazzo. Allora, l'operazione di Anna Damolo è una tipica operazione di è il tipico détournement del marketing politico, di quello che avete sentito evocare anche oggi durante la conferenza. I gruppi che l'hanno concepita ovviamente si sono ispirati a San Precario e a Sergio Canale, diciamo da un certo punto di vista. Diciamo, l'ispirazione è tipicamente San Precario, questa è una operazione simile a quella di San Precario, però con una, come dire, novità, nel senso che è stato creato il personaggio il cui nome è l'anagramma di Onda Anomala, che era il nome che alcuni giornali avevano dato al movimento 3 anni fa. C'è un brand, cioè c'è un brand che già nel modo in cui è fatto nella grafica suggerisce la questione del nome collettivo, perché è una figura che ovviamente parodizza e richiama, con alcune differenze, ma fa chiaramente riferimento alla vera ministra della pubblica istruzione, che era la Gelmini, però come vedete non ha la bocca, non gli è stata messa la bocca. Il fatto che non abbia la bocca significa che Anna Damolo potete essere tutti voi e quindi sarete voi che ci metterete la bocca, eccetera, eccetera. Tutto questo diciamo si evince, cioè si ricava dalla prima cosa del sito, perché il fatto di avere tutte queste storie, queste due o tre o quattro storie, che sono ovviamente storie fittizie, storie inventate, ma verosimili più o meno, e che sono state fatte così per far vedere una cosa che già allora era chiara, cioè che questo movimento contro la Gelmini doveva essere un movimento con tante componenti. C'erano gli studenti, c'erano quelli che erano usciti dalla scuola ed erano lavoratori precari, c'erano le famiglie, c'erano le mamme, c'erano gli insegnanti. Quindi c'erano tutte queste componenti, infatti ognuna di queste storie richiama a una di queste, come dire, componenti. E anche nel video, il fatto che venga detto tutte queste voci hanno suonato in questo palazzo. Allora, questa è la componente, per così dire, simbolica. È stato creato un simbolo da offrire al movimento, offerto al movimento. Però c'è stata anche l'operazione, cioè, perché questo è un gioco, allora perché non fare un blog? In realtà c'è anche il blog, andiamo a vedere, poi c'è anche il blog di Anna Damolo con alcune caratteristiche. Ma questo sito in particolare è stato fatto, e l'operazione ha avuto abbastanza successo, relativamente, diciamo, successo, perché invece questa è una caratteristica dell'operazione che San Precario non ha. Qui abbiamo un vero e proprio fake, quindi c'è il nome collettivo simbolico, diciamo componente, versione San Precario, collegato con un fake, con un subvertising vero e proprio, quindi con una... il fake era stato fatto perché il giorno 14 novembre del 2008, c'erano già state molte manifestazioni, ma ci fu la grande manifestazione a Roma in cui il movimento aveva deciso di accerchiare il Ministero della Pubblica Istruzione. Allora, il gruppo che concepì Anna Damolo aveva pensato di fare una cosa che era un po' troppo complicata da fare. La prima idea era quella di fare un hacking del vero sito del Ministero dell'Istruzione, che si chiama miu.it, Ministero dell'Istruzione. Poi, visto che la cosa era un po' difficile, ripiegarono su questa seconda cosa, che è quella di fare un sito finto, il quale però attraverso le cose, cioè la cosa fondamentale fu che si fecero delle prove prima e vennero messe in opera una serie di misure, per cui cercando un Ministero della Pubblica Istruzione, sino a prima che ci fosse questo sito qua, usciva quello del MIUR. da quando è uscito questo sito qua, nel giro di due giorni e mezzo, su Google questo sito ha superato il mio. Quindi la gente andava, cercava la cosa. La cosa c'ha una terza componente di cui vi devo solo, di cui vi posso solo parlare perché non c'ho ho dei materiali, ma da altra parte, perché non mi è rimasta traccia, o forse non lo so, si potrebbe vedere se è rimasta traccia in rete, perché la cosa in realtà cominciò prima del 14 novembre, cominciò su Facebook, quindi vedete che è stata un'operazione con molti layers, con molti strumenti, cominciò su Facebook con la creazione di un account a nome Maria Stella Gelmini. L'account non era fatto da Maria Stella Gelmini, ma era fatto dagli stessi che stavano preparando Anadamolo. Però il nome di Anadamolo ancora non si era visto, non si era detto, eccetera, eccetera, eccetera. No? Allora però c'è questa Maria Stella Gelmini. Maria Stella Gelmini, si vede il nome, in pochissimi giorni arriva a schizza sua, 5.000 amici, quasi tutti ovviamente sostenitori, eccetera, eccetera. Chi gestisce il sito, cioè chi ha le password, non apre bocca, non dice nulla, se non che non interviene quasi mai questa Maria Stella Gelmini. E gli mettono una foto trovata vera di Maria Stella Gelmini. Il giorno 14 novembre, in concomitanza con il lancio del sito falso ministero.it, contemporaneamente succede un colpo di mano su Facebook. Il sito di Maria Gelmini viene occupato, o almeno così credono, così credono tutti quelli che avevano aderito pensando che c'è anche qualcuno che nei precedenti ha aderito per scrivere insulti, eccetera, ma sono una piccola minoranza, la grande maggioranza sono sostenitori della signora Gelmini, e tutti credono che sia qualcuno. Allora, il sito viene occupato da Anadamolo, scompare la faccia della Gelmini e compare un'altra faccia che non è quella lì, che è la faccia di una persona in carne ed ossa, di una signora olandese che nessuno conosce, conosceva, qualità, una tipa strana, bella, simpatica, e questo già, e cambia il nome, al posto della Gelmini viene Anna Adamolo, e viene pubblicato il comunicato, sono nomi di istruzione, questa roba qua che sta sul sito viene toccato lì, su Facebook si scatena il finimondo, cioè alcuni pochi disdicono l'amicizia, ma la gran parte di quelli continuano a essere amici e insultano, bastardi, maledetti, come vi denunceremo, siete criminali, comunisti, avete preso, cioè, perché tutti sono convinti che quello che nessuno sa che effettivamente era un falso account della Gelmini, e quindi ovviamente col mio account e con quelli che hanno fatto la roba possono fare quello che vogliono, insomma, quindi ovviamente non è stato nessun nessuna cosa. È stata una operazione molto ben riuscita da questo punto di vista, perché ha avuto delle cose. Dopodiché, se andiamo a vedere il blog, vediamo, però volevo parlare anche di Fosco. E questo invece è... Ah, ok, non si sente. No, ma dimmi, cazzo. No, sì, un'anomala, perché tutti, cioè, sulla stampa è qualche giornalista, non so più che si inventò il termine, questa è un'onda, perché è un'ondata, però è un'onda un po' strana, è un'onda anomala, quindi al movimento piacque, specialmente a Roma, c'è un'onda anomala, va bene, allora il gruppo di questa Gelmini, di questa Anadamolo, lavorò su questa idea, poi dopo vi racconto meglio chi c'era dietro, la genesi, eccetera, eccetera. Adesso andiamo a vedere invece, Serpi Canaro, non voglio Serpi Canaro, voglio, perché non ho fatto il soldo. Allora, qui invece dobbiamo fare, ma che cretino, potevo andare con l'altro, stupido che sono. Ok. Vabbè, ah, poi vedete, è stato fatto un numero, vedete, c'è un numero che metto lì, c'è stato fatto un numero lì, hanno alcune centinaia di persone hanno telefonato, perché l'idea era, racconta la tua storia e chiamati Anna Darmolo dicendo sì, anche tu Anna Darmolo. Adesso l'opera non andrà mai, il maledetto. Ovviamente è stato aperto anche un blog sulla piattaforma NoBlox, non su quindi su una piattaforma che già raccoglie più o meno le cose di movimento. Allora vedete che infatti le robe sono piuttosto vecchiotte ormai, perché, e quindi c'è annaadamolo.noblog.org dove invece si è concentrata una attività fino al 2009, grosso modo, è andata avanti, 2008 e 2009. Vedete che c'è Ferrara, e allora qui dal blog avete un'idea grosso modo in quali si parla della May Day, naturalmente del 9, ci sono i video della May Day, quindi sul blog si vedono meglio i collegamenti di questo gruppo, di questo brand, di questo pseudo brand con altre componenti del movimento, con altre quindi con altre cose di questo tipo. Allora cosa devo dirvi? Ah sì, va bene. Vi potreste domandare, va bene, però questo interessante, però perché Anna Darmolo? Hai presentato lì uno qui, poi se volete andare a vedere a casa ve lo trovate, c'è stata una specie di operazione Top Girl, cioè Top Girl. Il giornale per le signorine, così, ha chiesto una intervista ad Anna Darmolo. Perché poi la gente, insomma, sui media è comunque comparso un po', eccetera, su diversi giornali, su alcuni con i quali collaboravano alcuni simpatizzanti di Anna Darmolo, bene, ma insomma, un po' è andata. Ma invece, il collettivo ha discusso al suo interno, come sapevano discutere loro, e hanno deciso che non avrebbero risposto a questa intervista. Diciamo, se voi guardate qua, vedete, dal blog si capisce che Anna Darmolo in realtà è stato un marchio utilizzato dal movimento in poche occasioni. A Milano, naturalmente, dove è nato, in realtà è nato in altri posti, ma insomma, diciamo, Milano era il posto da cui venivano molti di quelli che avevano lavorato. A Milano, poi a Ferrara, l'avete visto prima, a Messina, credo, insomma, in altre tre o quattro città d'Italia, però non è stato un marchio, come dire, qui c'è Mayday, Ferrara, prima era uscito Ferrara, ecco, Ferrara, Notre Dame dell'Onda, però già nel 2009 questa ancora, nel 2008 forse c'era in qualche posto in più, adesso quali sono solo quelli più nuovi, quindi Ferrara, sì, sempre Ferrara, allora, poi del libro vi parlo dopo, perché c'è anche il libro. Ma allora, cioè, però, vi potreste giustamente chiedere, diciamo, perché non è stata una cosa, diciamo, adottata in pieno mezzo, cioè, il rapporto tra Anna Darmolo e l'onda anomala non è stato lo stesso rapporto che c'è tra il corso al precario e il movimento precario. Il precario è un simbolo che tutti usano, eccetera, mentre Anna Darmolo è stato ristretto soltanto ad alcune aree e non a tutte quante. Come mai? Allora, intanto c'è una questione strutturale. La questione strutturale è che, come dire, San Precario in qualche modo è stato un brand, un marchio, un personaggio, un nome collettivo, un nome finto, costruito prima che nascesse il movimento o nel momento in cui il movimento veniva costruito. San Precario è stato costruito nelle primissime fasi della May Day e del nuovo movimento precario e quindi è nato all'inizio ed è cresciuto insieme al movimento. Anna Darmolo è nata che il movimento c'era già, era da quasi un mese che le cose andavano. Inoltre, mentre il mentre il movimento precari ha, come dire, si è sviluppato con una serie di cerchi concentrici, di onde che si allargavano, ma a partire dall'iniziativa di un solo nucleo, di un solo gruppo, che erano i milanesi, che poi sono chiamati chain workers, o che si chiamavano già chain workers allora, il movimento contro la Gelmini nasce già come un movimento plurale, disperso, frammentato, vago, certo, unificato su scala nazionale, cioè andiamo a fare la manifestazione tutti a Roma, eccetera, eccetera, ok. Però non si cosa. Mentre, e quindi è più difficile su un movimento del genere far passare, far sì che tutte le componenti, tutte le città, tutte le cose lo adottino. Ma la cosa forse più importante ovviamente è dovuta più che altro alla frammentazione politica di questo movimento. E qui allora dobbiamo dire chi ha costruito Anadamolo. L'idea di Anadamolo è un'idea che è stata partorita in queste aule, in questi spazi, in questi posti, perché diciamo, all'origine c'è una discussione interna al collettivo di Autart nella forma che aveva allora. Adesso Autart o è morto o non si sa bene, ma se anche conserva il nome, da quest'anno ha una forma totalmente diversa da quella che aveva gli anni scorsi, ma fino a che è stato veramente il movimento della, il, cioè, collettivo dell'autonomia artistica, Autart è stato. E quindi c'erano diversi studenti di Brera che stavano a Brera, alcuni altri che stavano fuori Brera perché stavano in Erasmus, e attraverso la connessione iniziale tra questi due e alcuni altri che stavano in Brera senza essere diciamo studenti ma facendo altri lavori in Brera, e attraverso l'interazione fra queste tre componenti, diciamo, studenti di Brera a Brera, studenti di Brera all'estero, professori di Brera, pochi ma c'erano insomma, sono stati coinvolti una serie di altri invece di altre realtà esterne, collettivi o, sì, o diciamo singoli più professionali, più, infatti i quali hanno messo anche il loro nome. E che sono stati citati anche nel libro, quindi possiamo dire chi sono, credo, perché non c'è una... Ecco, perlomeno per la grafica possiamo dire, per esempio, che la grafica è firmata a Parco di Yellowstone, che è un gruppo, che sono due persone che sono venute anche a fare la cosa qua, quindi sapete benissimo, diciamo, chi sono. Il video è stato fatto dal gruppo delle Liane Invisibili, che sono altri che sono stati qua o che sono stati, come dire, saranno. Quindi Anadamolo ha rappresentato il punto di coagulo di una serie di esperienze, diciamo, come dire, con un chiarissimo riferimento al movimento, ma anche con una capacità, pur mantenendo una cosa interna al movimento, di attirare anche e di fare interagire realtà non direttamente di movimento, realtà che possono avere una simpatia per il movimento, sia il Parco di Alostro che l'Eliana Visibile, evidentemente non avrebbero mai fatto questo lavoro se non avessero la sua simpatia, però non si può dire che sono dentro il, come dire, movimento. Ora, si dà il caso che all'epoca Autart, e ancora oggi, si appoggiasse da un punto di vista logistico, lo vedete nell'ultima riga del coso, al centro sociale Cantiere in Viale Monterosi 84 a Milano, che è uno dei centri sociali, come dire, milanesi. Il fatto che Autart stesse lì non significa affatto che, come dire, politicamente tutti i componenti di Autart facessero riferimento al centro Cantiere, era un modo per... Ma la situazione italiana dei centri sociali, delle componenti più direttamente politiche all'interno del movimento è tale che è frammentatissima. E quindi, siccome il centro sociale, il Cantiere nel 2008 aveva appena consumato una rottura con il coordinamento nazionale dei collettivi autonomi universitari che ha un sito internet che si chiama Uniriot, aveva appena rotto con Uniriot, il fatto che Anna Adamolo fosse per questioni pratiche, logistiche, sostenuto, supportato, sponsorizzato dal centro sociale il cantiere, non ha portato fortuna ad Adamolo, perché molte delle altre componenti si sono tirate, dicendo no, io però questa roba qui è bella, è carina, molta gente gli hanno detto, no, è bella idea, però c'è il cantiere. Non con questo vuol dire nulla contro quelle cantiere, anzi, cioè semmai è un settarismo, è chiaro che anche loro hanno la loro parte nel senso delle cose che avevano fatto prima, delle cose che fanno adesso. Quindi questo vi ho detto tutto per farvi capire che ci sono anche logiche di questo tipo. Comunque, insomma, l'ultima cosa importante e grossa che è stata fatta su Anna Adamolo è stato questo libro, è stato pubblicato questo libro, Sono Anna Adamolo, voci e racconti dell'onda anomala, che è un libro interessante perché ha avuto realmente, esattamente come per la costruzione della operazione, ha funzionato un lavoro collettivo di forse non proprio di tutti quelli che avevano partecipato ad Anna Adamolo, però se voi guardate dentro alla cosa alla fine trovate ovviamente Per la vita di Anna e la redazione del libro, la mailing list AA, Centro Sociale Cantiere, Collettivo Autar, Accademia di Brera, Florian Kramer, Piazza Larini, Istituto Rotterdam, perché erano quelli di Brera che stavano a Rotterdam in quel momento, Gatta, che è una persona che scrive in rete, Io Cose, Jaromi, Lelien Invisible, Leslie Robbins, che è la signora che ha messo il viso per fare la finta Anna Adamolo, Lobo, che è un'altra persona che scrive in rete, Onda Anomala Milanese e Parco di Yellowstone. Per i testi, Chain Worker, Collettivo No Passaran, Mediazione Culturale Milano, Coordinamento dei Quartieri Studenteschi di Milano e Provincia, il Coordinamento del Cantiere, Diversamente Strutturati Milano, che sono un pezzo di Chain Workers, che però compaiono anche prima, Matrix Video Crew, che sono gente che fa video, Rete Nazionale dei Ricercatori Precari di Pisa, Scuola di Italiano, Agenzia contro il razzismo e la xenofobia, Tecnici Amministrativi dell'Università Statale di Milano, Università 2.0 Pisa, per la benedizione San Precario, è ovvio che è stato citato San Precario. Questo libro è formato da un testo iniziale che è scritto in caratteri più grossi e che sono i testi integrali di cui avete sentito, che sono quelli lì che avete visto nel coso, e che nel video sono stati letti solo a brevi, come dire, frammenti, ma sono, e che ha scritto una sola persona, però li ha discussi con il resto delle cose. E poi abbiamo, nell'indice è scritto bene, ci sono 6 storie, 8 o 10, 10 storie, dove cazzo sta lì? Eccolo qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sono 10 storie. 10 storie in cui ognuna di queste storie è una diversa Anna Adamolo. Si chiamano tutte Anna Adamolo, sono delle sorte di autobiografie che sono state costruite, e sono loro lunghissimo questo libro, sono state costruite con un lavoro collettivo a partire da una serie di interviste, di robe reali, quindi anche vere, raccolte, però poi non è che possono mettere così, perché c'è una elaborazione letteraria, forse è un po' eccessivo, ma di scrittura, cioè sono testi che si possono, e tanti di loro che hanno fatto poi da base per una rappresentazione teatrale che è stata fatta in giro in vari posti, in varie cose, da cui alcuni hanno enucleato piccoli pezzetti, piccoli episodi messi in scena, fatti, eccetera, eccetera. Quindi sono 10 storie di 10 Anna Adamolo diverse, proprio come da un punto di vista collettivo, di lavoro collettivo. Naturalmente adesso è un po' che è fermo questo progetto qua, perché come ovvio, ma anche perché, devo dire, e qui volevo fare conclusione, perché sennò non arriviamo più a finire, perché una parte delle dei gruppi e dei singoli che avevano lavorato al progetto di Anna Damolo, che in realtà poi ha, si è lanciato negli ultimi 2 anni in una altra operazione. Manca una, sì, certo, perché questa è stata una, perché il nome è giusto, sto controllando. Sì, lo finiamo. Aspettiamo che lo carichi, tanto. Allora, questo è il progetto più recente, è il progetto Fosco Luigi Celant. Fosco Luigi Celant è un artista. Di cui si sa poco, ma adesso leggeremo la biografia, però possiamo subito vedere che anche qua c'è di mezzo un anagramma. Se fate Fosco Luigi Celant viene fuori conflitto sociale. Quindi Fosco Luigi Celant è l'anagramma di conflitto sociale. E comunque, siccome nasce anche questo in ambienti di artisti, quindi o di artisti o comunque insomma collegati con Brera, pure questo mi è stato raccontato che quando la persona che stava pensando all'anagramma ha visto che con le parole pare che fossero partiti da conflitto sociale, evidentemente per vedere che cosa usciva, quando qualcuno vide che usciva fuori Celant, ci fu le cose, cazzo, siamo a posto, allora di chi è giusto, perché ovviamente no. Quindi non hanno resistito i creatori di questa cosa a fare. Dopodiché insomma è un nome comunque abbastanza attuale, perché Fosco è un nome. Il cognome Loiti è accertato, io ho controllato il cognome Loito. Loiti non so se dice, però ma è plausibile che si chiama Loiti, c'era, se non ne parliamo, e quindi diciamo siamo a cavallo. Vediamo se riesco a recuperare la biografia di Fosco Luigi Celant per... eccola qua. Oh. La biografia è molto semplice, quindi forse chiarisce molte cose. Fosco Luigi Celant è nato a Bologna il 9 febbraio 1976. Vive e lavora a Milano, Pontedera, Roma, Pesaro e Parigi. La sua produzione artistica è strettamente legata al conflitto sociale, quindi dato questo sociale di affitto. Espone principalmente negli squat, nelle orge, negli scontri, nei treni, nei villaggi occupati. In poche righe c'è una quantità di riferimenti, che alcuni dei quali vanno forse spiegati, ma alcuni dei quali sono più trasparenti. Intanto la data di nascita. La data di nascita è una data di nascita reale. A Bologna, non di una persona, ma di una... Tu avete capito com'è? Nessuno ha idea di cosa sia nata a Bologna il 9 febbraio del 1976, è nata Radio Alice, cioè la prima radio libera di movimento che ha avuto grande importanza in tutti i fatti del 77 a Bologna. Quindi Fosco Luigi Celant è stato fatto nascere, siccome il 76 andava bene, un po' vecchiotto, ma vive la ora, allora Milano, Pontedera, Roma, Pesaro e Parigi sono ovviamente le città nelle quali vivono, a cui fanno riferimento quelli che hanno collaborato a questo progetto collettivo. La sua collezione artistica è il resto della cosa, è semplicemente un piccolo programma, un breve programma di cose. Allora, Fosco Luigi Celant sinora si è presentato al mondo artistico con 2 performance diverse. Però non si esclude che possa farne altre successivamente. Una nel 2009 e una nel 2010. Vorrei farvi vedere prima quella di MiArt e così. Però, perché non esce l'immagine? Allora, la prima azione è, dunque, questo questo artista predilige le performance, evidentemente. E quindi ha fatto due diverse performance. Una l'ha fatta a Miart il 19 aprile del 2009 alla Galleria Massimo De Carlo, la quale però non era confessiva, insomma, non era proprio d'accordo. Dichiarazione dell'artista. Domenica 19 aprile a Milano, allo stand della Galleria Massimo De Carlo, ho organizzato l'estrazione della mia opera Have You Ever Thought of It, che voi vedete praticamente riprodotta a sinistra, e abbiamo la foto vite, che ha tutta l'apparenza di un bancomat che non funziona, perché sta scritto sopra un cartellino che dice No cash in the ATM. Questa iniziativa è stata realizzata per attirare l'attenzione di tutti su ciò che lega il mercato dell'arte al mercato dell'economia in generale, per cominciare a mettere in atto comportamenti che ci sottraggano alla dittatura di quest'ultima. In una economia del segno come la nostra, le merci materiali, quindi anche le opere d'arte, sono solo la forma tangibile di operazioni immateriali e linguistiche. Tutta la produzione artistica e non è basata su azioni, relazioni ed emozioni generate e vissute da tutti noi. Tutto nella nostra vita, consumare, vestirci, fare lavoro e prendere psicofarmaci, è diventato lavoro, anche se non lo vogliamo. Questa è la classica analisi del posto di vita. Produzione e consumo si basano su effetti involontari dei nostri comportamenti, ma gli stessi comportamenti, se vengono rovesciati, possono inceppare, almeno temporaneamente, questo dispositivo. Anche oggi mi ha fatto un discorso che prima, nella cosa con Bernini, che era simile a questo. I partecipanti all'estrazione di domenica al Miart hanno realizzato uno sciopero involontario, dice Posolizia, uno sciopero umano, tra virgolette. La crisi che stiamo vivendo è il risultato di un meccanismo in tilt della difficoltà a mantenere funzionante la proprietà da parte di pochi di una ricchezza prodotta da tutti, ma è anche dovuta al fatto che la maggioranza di noi continua ad osservare le regole di un patto sociale che serve solo a riprodurre il funzionamento di questa macchina. Se la crisi ci colpisce quindi anche perché noi non ci sottraiamo a questo gioco. È ora di farlo, è ora di rivendicare un reddito sganciato dal lavoro salariato, è ora di praticare uno sciopero umano, non solo economico, è ora di sottrarci ai dispositivi dell'impero e dell'economia. Io sono un artista qualunque, un essere umano qualunque, una singolarità qualunque. L'estrazione della mia opera è stata solo una prima azione ancora timida verso la crescita del conflitto sociale. Con il sociale tutto il fondo, quindi va bene. Allora, se andate a cercare su YouTube, adesso non c'ho il tempo, non so come dire, trovate un video che spiega in concreto in che cosa è consistita questa azione e cosa c'entrava questa povera. Ah no, è qua, grazie, qua. Potrà vedere, ma dubito che si veda. Però così ve lo racconto io, perché se no non credo. C'è approfondimenti, c'è il legame a un testo che è stato come fare, firmato Ticcun, Ticcun è il nome di un collettivo radicale francese che ha scritto dei testi, ha messo in rete dei testi tra il 2000 e il 2003-2004, molto radicali, legati a componenti non propriamente ortodosse dell'autonomia, quindi non alla componente ufficiale, diciamo, nucleana. Allora, l'azione consisteva semplicemente in questo. Una serie di hostess, che poi sono arrivate vestite hostess, ma erano vestite come hostess, quindi signorine tutte con la loro gonnellina, la loro divisina, la loro cosa, hanno volantinato davanti al Miart in quella, diciamo, giornata un sottagliandino in cui, appunto, si diceva alle ore 17 di questa sera presso la galleria, come diavolo era, non mi ricordo più come si chiama, verrà estratta a sorte un'opera di Posolizia Celant, l'opera di Posolizia, dice partecipate con questo tagliando, dice portate questo tagliando alla Galleria di Carlo per partecipare all'estrazione, ovviamente la Galleria di Carlo. Dopo il primo quarto d'ora in cui sono cominciati ad arrivare i primi tipi, dice, voglio partecipare alla vostra estrazione, cioè, no, facciamo l'estrazione, cosa volete da noi, eccetera, quindi ovviamente sono andati in giro e all'incirca il volantinaggio è durato indisturbato solo la prima mezz'ora, 40 minuti, perché sono arrivati subito, pur essendo fuori dal MIART, e quelli del MIART che hanno detto, ma che cazzo siete voi, che cosa volete? Le signore hanno detto, noi siamo state assunte da un'agenzia, hanno dato il nome di un'agenzia, a cui devo dire, potrebbe essere il dubbio che esista davvero, ma so, e dice, quindi non possiamo sapere niente, comunque sono state allontanate, in realtà poi è stato fatto un'altra cosa, sono stati seguiti all'incirca 2000 di questi, diciamo, tra gli andini, la Galleria del Carlo era molto incazzata, per dire, era molto, e quindi c'è stata una serie di discussioni. Ma perché la Galleria del Carlo, cioè, caso? Non so perché c'è la scelta, io non me lo direi, no, a me, io che c'entra, io con qualcuno che c'era. No, suppongo perché era una galleria grossa e importante, una a caso, diciamo, non penso ci fosse, almeno che io sappia, non sono ragioni particolari. L'idea era quella, come è scritto nel comunicato iniziale, di mettere in luce il legame tra mercato dell'arte e arte in generale, diciamo economia in generale, quindi questa era la cosa. Lo scopo dell'azione, la vera performance, quindi non l'ha fatta il signor Porco, che non si è fatto vedere come ovvio, ma l'hanno fatta quelli che hanno ricevuto, ecco perché si dice sciopero umano involontario, cioè attraverso, diciamo, Porco di Gerard ha creato una situazione, quindi si può dire che è una fra tante cose stazioniste, insomma, un deturmante che ha usato una pratica normale, volantinaria, l'ha deturnata, l'ha cambiata le cose, e nella quale una serie di spettatori, cioè quelli che hanno ricevuto il talerino, sono stati involontariamente protagonisti di una performance, sono loro che hanno fatto la performance. Una certa quantità di queste persone, non si può dire quante a priori, ha avuto modo di riflettere sui temi dell'artista, poi che cosa ciascuno di quelli che hanno partecipato abbiano fatto o no, sono fatti suoi, voglio dire, sono fatti del singolo, ma come dire, l'artista ha messo in piedi una situazione nella quale era possibile per qualcuno, per chi come dire volesse, rendersi conto di un certo intoppo o di una certa cosa. L'artista non ce l'aveva con la Galleria De Carlo in particolare, evidentemente bisognava dire un po' qualcosa, bisognava dire vai lì, ma che bisogna adesso estrarre una sorta, non fare un caso, cioè non sarebbe stato verosimile, quindi è ovvio che bisognava fare una cosa di questo tipo. Quindi questo è stato l'azione del primo anno. L'azione dell'anno scorso invece è stata la seguente. Questa qua si chiamava MIART Strike Now. Sapete bene che strike in inglese vuol dire sia, può essere letto sia come colpisci, sia come sciopero, quindi c'è la storia dello sciopero umano, dello sciopero il 14 aprile 2010 l'operazione invece è avvenuta al cuore salone dell'Università Statale di Milano. Ricerca libera, saperi condivisi, il nostro futuro non vi compete. Il 14 aprile 2010 ho promosso un'azione di pubblica votazione sulle installazioni presenti alla mostra interna di Think Tank nei chiostri dell'Università Statale, uno degli eventi più attesi delle giornate del Salone del Mobile. Se ci siete stati l'anno scorso, vi ricordate che nei giardini della Statale erano esposte una quindicina, dai 15 grandi installazioni nei giardini, quindi c'è un chiostro con la Statale, l'entrata quella più a destra, quella ultima, insomma, quella lì che si vedono, di cui si vede il colonnato, eccetera. E questa cosa era stata realizzata da questo interni think tank, questo think tank sì, interni, il quale aveva detto facciamo queste cose qua, insomma, era un modo per coinvolgere l'università dentro al Salone del Mobile e c'erano degli, come dire, c'erano. Da un lato c'erano le installazioni in mezzo al giardino, e sotto i porti c'erano diversi stand di gente che esponeva o oggetti o attività di design, eccetera, eccetera. Come in altre occasioni, dice Fosco, la mia intenzione è stata quella di attirare l'attenzione su un problema, su un importante problema sociale, in quanto la strisciante, in questo caso la strisciante privatizzazione a cui è venuto porto il sistema universitario italiano di università. Di fronte allo smantellamento del welfare tradizionale e al crescente ridimensionamento del finanziamento pubblico, gli Atenei stanno infatti da tempo sperimentando, seguendo la cosiddetta guida del cosiddetto processo di Bologna, da un lato il ricorso al finanziamento privato, dall'altro l'aumento vertiginoso delle tasse sulle tedesche. Insieme all'ingresso delle imprese private nelle università, che porta con sé una maggiorità orientata all'interesse, alla competizione e al profitto, abbiamo quindi un'insostenibile pressione economica sugli studenti e sulle loro famiglie. Però questo caso di sito interrompato, o no? No, comunque no. La combinazione di questi due fattori sta producendo uno dei più massicci attacchi al diritto allo studio che si sia mai visto in Italia. Partendo dall'esempio dell'iniziativa di Interni, una lista del gruppo Mondadori, e dalla retorica sullo sviluppo sostenibile che caratterizza questa edizione del Salone, ho voluto indicare la logica predatoria e sfruttatrice del cosiddetto capitalismo cognitivo, che funziona sul sacchetto delle pratiche sociali e della creatività giovanile, che in cambio dei profitti conseguiti dalle aziende restituisce agli studenti solo disagio, precarietà e subordinazione. Ho sintetizzato questo atteggiamento nello slogan «Ricerchiamo il tuo futuro», ricerchiamo le tue competenze e scegliamo il tuo futuro, che riassume i metodi e gli obiettivi dell'aziendalismo mediale e non solo mediale. La libertà di ricerca, la condivisione dei saperi, il carattere pubblico e gratuito dell'istruzione non possono essere separati dall'autodeterminazione dei soggetti protagonisti di processi di conoscenza delle pratiche sociali. Partire dai propri desideri per arrivare a recuperare delle relazioni tra i singoli è un elemento fondamentale dei processi cognitivi e si deve basare sull'utilizzo della conoscenza e dei processi comunicativi di cui tutti deteniamo i mezzi di produzione. Come soggettività sono consapevole che la mia esistenza e il mio lavoro dipendono dalla ricchezza delle relazioni che mi definiscono e dell'autogestione che queste relazioni mi consentono. Io sono un artista qualunque, un essere umano qualunque, una soggettività qualunque, questa frase compariva già nel comunicato dell'anno prima, l'azione del 14 aprile è un altro passo verso l'accendersi del conflitto sociale, con colui che c'era scarica il loco. Lo slogan a cui fa riferimento è quello contenuto in questo, no, in questo volantino che adesso andiamo a vedere. C'è sempre un approfondimento, ma è sempre lo stesso testo di prima, questa volta c'è scarica il flyer, e quindi andiamo a vedere il flyer che è stato distribuito a nome Fosco Loitzcerant. In questo caso vedete c'è un fake pure qua, perché è stato preso il logo di questo interno think tank riprodotto tale e quale. Questo è il fronte del coso, e di nuovo c'è stata una distribuzione. Questa volta non c'erano le hostess, perché al Salone del Mobile era un off di Salone, ma erano gruppi di, diciamo, studenti molto più riconosciuti, nei quali anche questi però sono stati un po'. L'opera che riceverà più voti verrà donata all'Università degli Studi di Milano. Vota la tua opera preferita incollando l'adesivo sulla rispettiva targhetta esplicativa. Dopo aver votato riceverai in omaggio un gadget HP disegnato da Fosco Loitzcerant, recandoti presso. In questo caso il presso, vedete che c'è il coso, è vuoto, sono stati coinvolti più di uno stand, quindi non come l'anno prima, però per una serie di motivi il più frequentato tra questi stand è stato lo stand Lavaccia. Allora, questo era il fronte. Nel retro, adesso andiamo a scaricare il retro, però maledetto che non mi scarica le robe, scarichiamo il retro. No, troppo verso, vai sul pianino perché ti fai male. Adesso, Allora, in questo caso il S ci desse il testo, il, diciamo, l'obiettivo era il comodatore raccoglie la sfida dell'Expo 2015, investendo nella formazione grazie all'Università degli Studi di Milano. Spazi e didattica sono l'obiettivo principale della nostra collaborazione. Siamo convinti che il futuro degli studenti, quindi qui è la Mondadori che parla, o almeno pare che sia così, insomma. Siamo convinti che il futuro degli studenti sia... l'elemento fondamentale per la costruzione del... Del domani! Ah! Per questo motivo da sempre, eccolo qua, scegliamo! Vediamo che cosa. Il tuo futuro e ricerchiamo le tue competenze, no? Questo era lo slogan. Arnoldo Mondadori, quindi è stato preso di mira Mondadori in questo caso. I loghi sono tutti a posto, tutti veri, tutti giusti, ma voi sapete meglio di me quanto poco ci voglia per mettere un logo in un posto. Quindi un'altra operazione che ovviamente sfrutta le possibilità, le sempre maggiori possibilità di fare dei falsi, quindi c'è il logo dell'Università degli Studi, c'è il logo del Comune di Milano, c'è il logo dell'Expo e ci sono i co-producer che sono appunto HP, Mini e Ener. E siamo a posto. Dopodiché, come nell'altra parte, voi avete capito che il flyer invitava tutti quelli che avevano il flyer a staccare un piccolo adesivo che c'era sul flyer e ad appiccicarlo su una delle installazioni. Vota quella che mi piace di più, quindi voto questa. L'installazione che avrà più voti sarà donata dalla fiera, dalla Fiera del Mobile, dagli interni, all'Università di Milano. Per ricompensarti di questa cosa avrai un piccolo gadget recandoti con il tuo flyer, col coso tolto, con lo sticker tolto, così vai la cosa. E quindi la cosa, anche qua c'è un video che è molto divertente, in cui ovviamente lo stand, diciamo la razza, è stato preso di mira. Questa volta quelli incazzati erano molti di più. L'anno prima c'era soltanto ovviamente la Galleria Carlo, quest'anno erano incazzati ovviamente la Vaccia perché ha avuto lo stand invaso per una roba di cui non la Vaccia, poi alcuni altri, però pare che ci fosse il tipo l'ha messo di più la Vaccia, non so perché. Poi si è incazzato Mondadori, ma si è incazzato anche Interni perché io che ero lì per caso ho assistito di persona a una... A come era incazzato Nero, uno di questi redattori di Interni. Mi sono avvicinato e gli ho chiesto cos'è questa cosa, mi dice, ah, è interessante, dico, no, come interessante, sono i soliti contestatori, ah, dico, beh, ha qualcosa da contestare, però mi sembra intelligente, ho detto, questo qui non vuole sentire ragioni, essendo un vecchio signore, nessuno potrebbe, cioè chi io cosa c'entro io con questo, nessuno potrebbe pensare che... No, assolutamente, neanche voi dovete pensarlo, sia ben chiaro, se no poi dicono che faccio, se io non c'è. Io questi qui sono argomenti, cose che ho raccolto lì, il mio lavoro è quello di fare critica e riflessione sui questi qua sono processi culturali, quindi sono comunicazioni multimediali, quindi fanno parte del mio corso, insomma io ve li racconto per quello, ma non che io c'entri in nulla né con Anna Damolo né con un posto dove dice. Quindi sono. Quindi anche qua ci sono stati le signorine, le ragazze strattonate, eccetera, perché dopo un po' il volantinato, questa volta sono stati distribuiti credo qualcosa come 4.000-5.000 flyer. Credo che siano costati anche un bel po', perché questa volta vedete bene che le tematiche non sono specifiche dell'arte, ma sono più generali della scuola. Questa seconda operazione di post-colloidicità antipatia è stata organizzata non solo dal collettivo Autark, ma da tutti i collettivi del movimento studentesco di Milano, quindi c'era scienze politiche, lettere, c'erano tutti quanti, c'era molto più gente che volantinava, e c'era molto più cose, molto più, però insomma poi di fatto però, chi ha fatto le cose sono stati ovviamente sempre gli stessi che avevano fatto il posto dell'anno prima, grosso modo, insomma. E quindi persone che potrebbe capitarvi di incrociare o di incontrare, forse qualcuna l'avete anche vista oggi, forse l'avete anche sentita parlare, e quindi insomma sono sempre quelli. Le trovo cose molto ben fatte, molto, molto divertenti, molto. Anche qua uno si può chiedere, quando c'è stata la grande cosa mediale? Anche questo si ricollega ad alcune delle cose che abbiamo discusso sotto con Bernini. Io sono più che convinto di questo. Le cose che hanno più senso oggi che si possono fare, ricercare la virgolette visibilità a ogni costo, fare le grandi operazioni mediali, eccetera, eccetera, non è che le disprezzo, ma hanno meno interesse, secondo me, di cose anche più piccole, più modeste, che poi conoscono in pochi o che in quel momento. La cosa importante è, seminare, cioè mettere piccoli pezzi, piccole cose, e poi certamente cercare di lavorare al massimo perché si estendono, questo è ovvio. Però scoraggiarsi perché i grandi media non ne parlano, eccetera, eccetera, mi pare sbagliato, insomma. Da un certo punto di vista, poi non devo dire adesso, non voglio dire, ma insomma, dimostrano 100.000 volte più capacità progettuale e anche professionalità, che è un termine che odio, ma che in questi ambienti si usa, alcune delle cose di cui vi ho parlato oggi, piuttosto che non tante operazioni molto più sbandierate, molto più grandi, molto più. Quindi non è detto che la qualità si identifichi sempre per forza di cose con questo. E ovviamente quello comunque che a me interessa è che dentro a queste operazioni rimane comunque l'ispirazione di, chiamiamola resistenza, chiamiamola opposizione, chiamiamola costruzione molecolare, però pezzettino per pezzettino, insomma, di un processo che porti un numero sempre maggiore di persone, o anche un numero più piccolo inizialmente, ma in maniera più approfondita, a un cambiamento della propria coscienza, del proprio rapporto con il mondo. Se l'arte non fa questo, non vedo cosa debba fare, insomma. Poi certamente siamo tutti contenti che Damien Hirst vende i suoi squali in formaldeide e non possiamo escludere neppure che anche gli squali in formaldeide di Hirst possono in qualche caso produrre degli effetti di tipo in senso lato politico. Però certamente se uno poi va un po' a vedere, forse per Catalano il discorso è un po' diverso, operate, ma insomma né nel caso della Beecroft né nel caso di Hirst, dico due nomi così, non mi pare che questo sia uno degli elementi fondamentali del loro rapporto col mondo, della loro col mondo. Per Catalano il discorso è un po' diverso, perché vedete Catalano ogni tanto almeno dimostra di voler mettere a modo suo, per le sue intenzioni, poi che ci riesca tanto o meno, non lo so. Insomma, va bene. Allora, io mi congedo da voi per questa ultima lezione. Spero di avere dimostrato, di avere indicato almeno un paio di cose fondamentali. La prima è che la comunicazione multimediale è sempre esistita, la seconda è che il rapporto tra la parola e l'immagine è più complicato e più conflittuale di quello che sembra. La terza cosa di cui vi ho parlato quest'anno, queste sono le due cose di cui ho parlato nella prima parte del corso, la seconda cosa di cui ho parlato quest'anno è il modo in cui la comunicazione multimediale produce effetti non solo nella sensibilità e negli occhi della gente, ma anche nella loro testa. Fine.